ZYK 246, Rádio Garibaldi, Garibaldi. Uma emissora da Fundação Cultural da Serra, comunicando mensagens de paz e bem. 24 horas no ar. A musicalidade de um povo, Domenica Italiana. Buongiorno, buongiorno, gente boa. Siamo di nuovo cominciando il programma Domenica Italiana qua per la Radio Garibaldi, de Garibaldi, della bellissima Serra Gaúcha, in cui che nel giorno 19 di dicembre del 2021, in cui il programma è bellissimo. Buongiorno comandante Artur, buongiorno Ivone, che è personale della tecnica, e buongiorno Possebon. Buongiorno Romano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E buongiorno a tutti. A tutti quanti, né? Tutti quanti. Marasca, buongiorno. Buongiorno Romano, buongiorno ascoltatori, telespettatori, struconasso. Siamo qua al vivo e a colori come sempre. Adesso sa che comincia la safra della uva qua di noi. E antecede un par di giorni in Natal. Siamo sotto il vignale stamattina per presentarvi il programma Domenica Italiana, Romano. È vera, è vera. E scominciamo con cosa? Con musica? Sì, oh. La campagnola, cari. Sui campi a lavorare, cantare si fa sentire la campagnola. Quando fa giorno, sui campi a lavorare, cantare si fa sentire la campagnola. Che bella faccina e la gamba. Sigue la la campañola, que me la facilite. Thank you. 7:50, siamo qua col programma Domenica Italiana, bellissima musica. E questo programma è un offerimento di Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, Esquina Joia, Massimi Móveis, Capelas e Funerária Nossa Senhora do Carmo, Bortolini Móveis e Cleoni Empréstimos. Cosa mi dici tu, Marasca?